Da 2 a 3.000 euro per una separazione consensuale, fino a 10.000 se si arriva al contenzioso e spesso in nero. Il divorzio è tornato al centro del dibattito per le novità sulla separazione breve e gli avvocati fanno i conti. In generale, il guadagno medio della categoria è stimato in 46.000 euro lordi l'anno, ma le dichiarazioni dei redditi non tengono conto delle parcelle in nero, nel civile come nel penale. Da una recente inchiesta di Altroconsumo su chi si è rivolto a un avvocato negli ultimi 10 anni, risulta che solo 4 su 10 ha ricevuto regolare fattura. Il 16% ha dichiarato di averla ricevuta, ma solo per una parte dei pagamenti. Il 44% invece ha pagato totalmente in nero. Quindi, in 4 casi su 10, gli avvocati hanno incassato senza pagare tasse. Particolarmente grave, soprattutto se si considera che stiamo parlando di professionisti della giustizia. Fra i clienti che hanno ricevuto la fattura, 1 su 10 ha dovuto chiederla esplicitamente e il 7% ha dovuto pagare un importo maggiorato per averla. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.